Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Ogni volta che si porta un curriculum per qualunque tipo di lavoro si richiede sempre esperienza, ma se nessuno ci dà questa esperienza, se nessuno ci apre la prima porta, beh, è un po' difficile maturarla da soli. Io sono convinto che quando un ragazzo del studio ce la fa, non ce la fa una volta, ma ce la fa due. Bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi lo spunto iniziale ce l'offre il trailer di Terra Scommessa, docufilm curato da Franco Esposito, che lancia un messaggio di speranza. Il Sud può ancora farcela perché ha risorse, creatività e spirito di iniziativa. La pellicola ruota intorno a tre storie: quella di un giovane laureato emigrato a Londra, quella di un imprenditore che dal Sud ha conquistato il mercato mondiale e quella di un pianista calabrese affermatosi all'estero ma tornato nella sua terra per insegnare ai giovani. Oggi ricerca nuovamente in primo piano, anche se con uno sfondo legato alle relazioni internazionali. Questo sabato ci sposteremo fino in Finlandia. Restate con noi perché tornano anche le rubriche Controesodati e l'Ideogramma. Questo pomeriggio, vi anticipiamo, giocheremo su tre tavoli geografici: Stati Uniti, Europa e Cina. Frase della settimana è copyright del presidente del Senato Pietro Grasso. Parlando ai giovani ha detto loro: siete l'investimento più proficuo e produttivo per il futuro dell'Italia. Compito della politica è cercare di agevolarvi e di costruire possibilità perché vi possiate affermare in questo paese. È probabile che qualcuno di voi andrà all'estero, ma quelle esperienze sia un modo per completare la conoscenza con l'obiettivo, l'obbligo e l'orgoglio di tornare nella penisola. Così Grasso. E non vogliamo essere venali, ma non è solo una questione di prospettive di carriera e rientro in Italia, c'entra pure lo stipendio. Siamo il nono paese per livello di salari nell'Eurozona secondo Job Pricing, con una media di oltre 28.000 euro, dietro a Germania e Francia e poco sopra la Spagna. Ma come denuncia il Sole 24 Ore, al netto dell'elevata tassazione sul lavoro, finiamo con lo scivolare agli ultimi posti in classifica. Così, spesso si prende la strada del nord, questa settimana andiamo molto a nord, fino in Finlandia, per raccontarvi una storia che incrocia ricerca e relazioni internazionali. Non c'erano garanzie o certezze, nonostante la loro buona volontà. Con queste condizioni chi può cerca altrove. E poi la gavetta nelle università italiane è troppo lunga, è ingiustificato, i giovani non vengono valorizzati. Marco Sid, di 30 anni, è Senior Research Fellow presso il Finnish Institute of International Affairs a Helsinki. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora in notiziario. In apertura un flash con i dati della startup italiana Face4Job relativi alle offerte di lavoro su scala mondiale. A settembre primeggiano Stati Uniti con 343.000 posizioni, seguiti da Emirati Arabi e Australia. Sesta l'Italia con 48.000 offerte attive. E ora la seconda puntata della rubrica Controesodati. Oggi vi raccontiamo una storia di eccellenza, quella di Andrea Despirte, 26enne, che dopo essere rientrato dagli Stati Uniti avvia in Italia la propria startup, la quale, come vedremo, ha molto a che fare col mondo del lavoro. La rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per infoitalents.org. Ascoltate con attenzione questa intervista. Andrea sottolinea alcune criticità del nostro ecosistema innovativo. Ora la sua storia, che inizia dagli Stati Uniti. Ho deciso a un certo punto di andare oltreoceano, dopo, in realtà subito dopo aver finito gli studi superiori, perché era un po' il mio sogno, un po' la Mecca, New York. Quindi ho deciso di prendere la valigia e andare. Lì ho fatto veramente un po' di tutto e inoltre sono entrato in contatto col mondo delle startup. Quindi ho capito, vedendo altri ragazzi che stavano creando startup lì, quali erano le più grosse problematiche più che le bellezze della realtà stessa. Ti faccio subito allora una domanda. Sì. Perché tornare anziché avviare una startup a New York, come molti magari avrebbero fatto? Un po' credo per spirito patriottico, da un altro punto di vista perché vedevo per me più semplice raccogliere soldi in Italia. Quindi sono tornato, ho iniziato a studiare filosofia e nel mentre ho iniziato a creare quella che è adesso Job Your Life. Cos'è Job Your Life? Spieghiamo. Job Your Life è un motore di ricerca che permette alle aziende di trovare il candidato ideale nella zona geografica in cui li sta cercando. Noi abbiamo invertito il processo creando questo motore di ricerca che si basa dietro un algoritmo semantico che permette alle aziende di individuare i candidati iscritti a Job Your Life nella zona geografica in cui li cercano. Tu prima hai detto una cosa interessante, hai detto sono tornato anche un po' opportunisticamente perché pensavo di poter raccogliere meglio i capitali in Italia, eccetera. A posteriori la scelta di tornare è stata premiante? Allora, devo dire di no, nel senso molto brutalmente. In Italia non esiste ancora un ecosistema che permetta alle aziende, alle realtà, alle start-up di strutturarsi in maniera più che altro veloce, quindi di raccogliere velocemente capitali importanti per poi poter essere veramente competitivi sul mercato internazionale. Si sta cercando di fare qualcosa, ci sono dei segnali positivi, devo dire che la strada secondo me è ancora lunga. E per chiudere allora ti chiedo qual è il tuo personale consiglio, richiesta al sistema paese? La politica che cerca comunque di entrare nelle tematiche startup dovrebbe fare solamente due cose secondo me: ascoltare chi sta facendo startup, ma ascoltarli veramente, e seconda cosa copiare dall'estero. Siete contro esodati? Volete raccontarci il vostro rientro nella penisola? Scriveteci giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nel cuore della Scandinavia. Si può fare ricerca anche molto a nord quando si presentano le opportunità giuste. Nome: Marco. Cognome: Sidi. Età: 30 anni. Città di origine: Sanluri, vicino a Cagliari. Studi: laurea in storia Oxford e dottorato in relazioni internazionali a Edimburgo. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? A Oxford, in Inghilterra. Perché? Per studio. Quale lavoro svolgi attualmente? Ricercatore. Dove? All'Istituto Finlandese di Affari Internazionali. Tornerai? Può darsi, se trovo un lavoro adeguato. I finlandesi Kwon, Tainted Love, per introdurre la storia di Marco Siddi. Sono venuto a lavorare fino ad Helsinki perché qui le condizioni di lavoro sono molto buone. Con questa semplice frase riassumi un'intera scelta di vita, Marco. E allora, con altrettanta semplicità, ti chiedo: quali sono gli ingredienti base per garantire a un ricercatore delle condizioni di lavoro quantomeno buone? Ma innanzitutto uno stipendio adeguato, decente, poi un po' di stabilità, vale a dire un contratto a lungo termine o magari indeterminato. Molto e poi possibilità di fare ricerca, non project management. Molto molto semplice. La tua dimensione si profila internazionale fin dagli studi. Le scuole superiori le concludi al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino a Trieste. Quanto quell'esperienza è stata utile per aprirti gli occhi sul mondo? È stata molto utile, soprattutto perché è stata un'esperienza internazionale che mi ha permesso di vivere in mezzo a culture diverse. Poi ho studiato in inglese e ho avuto anche un po' di orientamento per la scelta delle università all'estero. Tu non ti tiri indietro perché ti proietti subito dopo ad Oxford, dove approdi per studiare storia e linguaggi moderni. Allora, come si entra ad Oxford? È difficile, ma non è impossibile. Si fa domanda e poi si viene invitati, se la domanda è buona, per un colloquio con prove orali e scritte, al termine delle quali si riceve, se si è fortunati, insomma, un'offerta condizionale al voto del diploma. Quali sono i punti forti e quelli deboli del sistema di educazione anglosassone? È ottimo per quanto riguarda la profondità dello studio, si lavora tanto con fonti primarie e testi originali. È un punto più debole magari è la cultura generale. A Oxford ti laurei col massimo dei voti, prosegui con un master all'Accademia Diplomatica di Vienna, poi con un dottorato alle Università di Edimburgo e Colonia. Parallelamente lavori o collabori con centri di ricerca dell'Europa centro-settentrionale. Il tuo campo di ricerca sono le relazioni internazionali. Com'è la vita, Marco, del ricercatore con la valigia? Quanta gavetta bisogna fare? La vita non è facile, è necessario molta flessibilità, capacità di adattamento. La gavetta è lunga, è molto lunga. Bisogna fare un dottorato, bisogna pubblicare, poi farsi conoscere ora in vari modi, anche sui social media. Il sistema universitario italiano è troppo chiuso, poco internazionale, sentenze. E per questo ti chiedo, che hai scartato la penisola, quale punto di approdo per il tuo lavoro? Cosa ci manca? Per quanto riguarda lo studio, sì. Per quanto riguarda il lavoro, soprattutto il fatto che ce n'è poco, è pagato male nel mio settore. Tu però in realtà alla conclusione del dottorato un tentativo di rientro lo avevi fatto, proprio a Cagliari tra l'altro. La tua posizione era legata a un finanziamento europeo, precisiamolo. E come nel più classico dei casi, il problema poi è stato di prospettive. Cosa ti è stato risposto dai tuoi superiori quando hai toccato il tema del tuo futuro in università? Non c'erano garanzie o certezze, nonostante la loro buona volontà. Con queste condizioni chi può cerca altrove. E poi la gavetta nelle università italiane è troppo lunga, è ingiustificato. I giovani non vengono valorizzati. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marco Siddi, 30 anni, Senior Research Fellow per un istituto di studi internazionali a Helsinki, in Finlandia. Dopo un periodo di formazione estremamente europeo che ha visto Marco studiare ad Oxford, il protagonista di questa settimana prende la strada della Scandinavia rispondendo a un'offerta di lavoro seria e a condizioni molto buone. Peccato solo che non arrivasse dall'Italia. Riprendiamo l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Per questo a dicembre ho deciso di interrompere il contratto in Italia accettando l'ottima offerta arrivatami da Helsinki. Commenti con un po' di amarezza. Cosa è stato necessario per farsi assumere in Finlandia e dove lavori ora soprattutto? Dunque, lavoro all'Istituto Finlandese di Affari Internazionali. Per farmi assumere qui è stato necessario avere un curriculum vitae internazionale, flessibilità. Poi è stato importante avere un network internazionale, quindi avere, conoscere persone in diversi paesi e avere delle proposte. La cosa più incredibile, almeno vista con occhi italiani, è che ad Helsinki ti hanno subito affidato una posizione senior, forse perché il curriculum ha certe latitudini, conta realmente di più. E forse anche perché si viene ricompensati alla fine per quanto si vale davvero, Marco? Senz'altro. Per esempio, il fatto di avere il dottorato mi ha permesso di avere accesso da subito a una posizione e un salario più alto. E di cosa ti occupi in due parole all'interno delle tue ricerche adesso? Mi occupo di rapporti tra Unione Europea e Russia, relazioni energetiche e ora anche rapporti tra Germania e Russia. Allora, all'interno della lettera che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it snocciole alcuni punti fondamentali che spiegano, al di là della tua storia particolare, perché così tante migliaia di ricercatori italiani scelgono l'estero. Allora, la prima parola chiave è budget per la ricerca. Quanti fondi investe la Finlandia? Dunque, se guardiamo i dati OCSE, nel 2013 la Finlandia ha investito il 3,3% del PIL, l'Italia solamente l'1,2%. Ora, ci sono tagli anche in Finlandia, ma c'è una grossa differenza. Sì, questi dati la dicono lunga. E non c'è solo un budget complessivo, ma anche personale. In Italia, per i ricercatori della mia età e nel mio settore, è difficile trovare condizioni simili a noti. Quali sono queste condizioni di budget personale? Sicuramente avere uno stipendio decente, slegato poi da progetti esterni, quindi uno stipendio in-house. Poi appunto avere un budget per conferenze, per fare viaggi di ricerca. Un punto molto interessante che tocchi è quello delle gerarchie. Ci racconti come sono le gerarchie lavorative alla finlandese? Cosa conta soprattutto in una parola? I rapporti sono molto informali e questo permette di andare, diciamo, subito al punto. Mi consulto spesso in modo informale con i miei superiori, anche con la direttrice dell'istituto. Quindi diciamo, non è che il capo ha sempre ragione, come magari avviene in Italia. No, assolutamente. Tra l'altro qui anche il capo è abbastanza giovane, diciamo, è sui 45 anni. Chiaro. Last but not least c'è il tema dell'internazionalizzazione dei centri di ricerca. Quanto questa è fondamentale per far progredire la ricerca stessa e come vedi l'Italia in termini di apertura internazionale? L'internazionalizzazione è molto importante. Se pensiamo anche alla crisi attuale in Europa e a come affrontarla, lo scambio di idee tra culture anche accademiche diverse aiuta tantissimo e l'Italia è poco aperta da questo punto di vista. Più in generale, domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. In Italia c'è poca meritocrazia, pochi fondi per la ricerca, poca internazionalizzazione, come abbiamo detto. Cosa fare? Sicuramente investire di più nella qualità generale di insegnamento e ricerca, ma anche creando poi realtà più prestigiose, specializzate. Ci dovrebbero essere più corsi di studi e più ricerca in inglese, in modo che possiamo anche attrarre cervelli internazionali e non solo quelli italiani. Ci raggiunge ora in linea Marco Incerti, Research Fellow e capo della comunicazione al Center for European Policy Studies di Bruxelles. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio. Allora, tu vivi nel cuore dell'Europa da diversi anni. Quanto vedi la storia di Marco Siddi riflessa in tanti altri colleghi connazionali che immagino avrai incontrato all'interno del tuo percorso? Purtroppo è una storia che suona familiare. Io lavoro in un centro studi qui a Bruxelles comparabile a quello dove lavora Marco. Sono qui da 14 anni e in corso di questo periodo è un centro europeo, ma sta diventando molto italiano perché abbiamo molti dottorandi e ricercatori con dottorato che sono venuti da noi. Marco, la tua storia prende le mosse a Roma, studia la Sapienza, dove inizia a collaborare prima del salto in Europa. Cosa ti porta a Bruxelles? Nel mio caso è più una questione specifica, sono specializzato in diritto pubblico e costituzionale europeo e sono venuto a Bruxelles specificamente per seguire i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa, quindi Bruxelles era un po' la scelta obbligata o comunque ovvia. E attualmente di cosa ti occupi al Center for European Policy Studies? Continuo a seguire gli esiti politico-istituzionali a livello europeo, ma appunto sono capo della comunicazione e in questa veste sono anche responsabile del SEPS Idea Club, che è una specie di piccola Davos brussellese che organizziamo da 3 anni, riunendo appunto tutti questi talenti mondiali, compresi tanti italiani. Allora Marco, in tutta onestà, hai l'impressione che le relazioni internazionali occupino un posto forse persino inferiore alla media in Italia nella considerazione accademica? Si parla tantissimo di ricercatori, si piangono lacrime di coccodrillo per la ricerca qui in Italia, ma alla fine si finisce con identificarla quasi solo con quella da laboratorio. E voi, quanto vedi rilevanti i centri di ricerca di politica internazionale made in Italy? Ma intanto vorrei parzialmente essere in disaccordo con Marco sul piano della preparazione, perché appunto noi abbiamo tanti colleghi, non solo qui da noi ma anche in altri istituti di ricerca a Bruxelles, che vengono da università italiane, quindi come base la formazione c'è, è valida ed è riconosciuta anche sul piano internazionale, anche se magari previo specializzazione all'estero. Detto questo, appunto, purtroppo, come ha detto Marco, le condizioni poi di lavoro in Italia restano non particolarmente incoraggianti. Per quanto riguarda sul piano internazionale, appunto, ci sono due realtà come l'OIAI, l'Istituto di Affari Internazionali, e l'ISPI di Milano, che continuano a godere di un'ottima reputazione sul piano internazionale. Al di là di queste due realtà, però, non c'è molta visibilità visto da Bruxelles almeno. Magari in brevissimo una domanda di Marco Siddi a Marco Incerti. Mi interesserebbe, a Bruxelles ci sono tanti giovani italiani che lavorano nel settore del lobbying o nella comunicazione anche per organizzazioni internazionali o la UE. E secondo te, Marco, questi sono lavori temporanei oppure un nuovo tipo di emigrazione permanente anche per mancanza di alternative in patria? Ma per molti di queste persone nasce come lavoro temporaneo, ma mano a mano, volenti o nolenti, si trasforma in emigrazione permanente. E appunto a volte non è una cosa che è vista di buon occhio, cioè molti aspirerebbero a ritornare. Adesso sembra che le condizioni in Italia stiano lentamente migliorando. Ecco, ma ecco, giusto questo ti volevo chiedere, Marco, è tornato un po' di ottimismo negli ultimi mesi, questi refoli di crescita, insomma, guardate all'Italia come un punto di riapprodo o no? Al di là delle opinioni politiche, a Bruxelles si comincia a guardare l'Italia con un po' più di speranza, l'operato del governo va nella giusta direzione seppur lentamente, quindi c'è qualche, anche da quel punto di vista, qualche green shot, qualche speranza che le cose si sistemino e che quindi poi si creino le condizioni per un rientro di almeno alcuni di questi talenti e cervelli italiani, ma non è per domani, credo che ci vorranno ancora diversi anni purtroppo. Speriamo, tra l'altro speriamo si superino anche i pasticci fatti con la nuova norma per il rientro dei talenti e la vecchia norma sul controeso e sono andate a cozzare. Vi terremo aggiornati, continuate a scriverci su questo punto, vi terremo aggiornati quando finalmente ci saranno i decreti attuativi. E io ringrazio Marco Incerti, in bocca al lupo, e domanda di rito per Marco Siddi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Ma consiglierei di partire dopo aver ottenuto qualifiche oppure con un piano per ottenerle all'estero e con l'obiettivo di imparare la lingua del paese di destinazione. Direi di no a un'emigrazione alla disperata, ma direi di vederla come opportunità di crescita. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Seconda puntata per la nostra nuovissima rubrica Lidogramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia prova oggi a guidarci nei lavori più richiesti in Estremo Oriente. Sentiamo. Nella puntata scorsa ho voluto ricordare, perché mi sembra doveroso farlo, visto che c'è molta mistificazione sul punto, che la Cina oggi è un paese che offre sì ancora delle opportunità, ma il cerchio si è notevolmente ristretto e gli stipendi per chi è assunto oggi sono mediamente tutt'altro che appetibili. La Cina è diventata molto più esigente, molto più selettiva e molto più protezionista rispetto anche solo a 5 anni fa. Lo straniero che voglia venire a lavorare in Cina deve dimostrare di avere una professionalità che il mercato cinese non offre, diversamente non ottiene neanche il visto di lavoro. Ma quali sono le figure professionali più ricercate e come distinguere offerte serie dalla vendita di una speranza vana, addirittura da una truffa. Ecco, potete fare un esperimento: se avete davanti a voi un computer, potete semplicemente digitare su Google la frase lavorare in Cina e troverete una serie di link che offrono informazioni sul mercato o rimandano a delle job bank, a delle banche dati per la ricerca di un lavoro. Oggi vorrei segnalarne uno che è tratto da un sito che non è solo una job bank, saporedicina.com, che parla anche della vita e di come si lavora, di come si trova lavoro in Cina, che offre tra l'altro un ebook gratuito dal titolo Come abitare e lavorare in Cina e un motore di ricerca con offerte di lavoro in Cina costantemente aggiornato, che mette un po' insieme le offerte di tanti altri motori di ricerca. Basta una rapida occhiata a questo motore di ricerca per rendersi conto che le figure ricercate sono professionalità molto specifiche. Ad esempio, qualche giorno fa leggevo che una multinazionale nel settore dell'energia eolica offriva uno stipendio da $70,000 lordi, che non è neanche uno stipendio stratosferico, e che cercava a Pechino un addetto alle vendite e al marketing con laurea in ingegneria o economia e almeno 5 anni di esperienza nel settore delle turbine, che non è poi così facile da trovare. Invece, ad esempio, la Johnson & Johnson Medical cercava uno specialista di prodotto, di fatto un venditore, per incrementare la vendita di farmaci e apparecchiature medicali presso vecchi e nuovi ospedali a Shenyang, che è una città di seconda fascia a nord di Pechino, nella provincia dell'Hebei. Non era specificata la laurea o l'esperienza richiesta, però era evidente che si trattava di un profilo accessibile a pochi, probabilmente più accessibile ad un cinese che non ad esempio un italiano. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Pentiti o Felici. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre è rivolta a tutti coloro che quest'anno hanno deciso di tornare in Italia. Dopo il pasticcio delle due norme sui controesodati, siete pentiti o felici di aver fatto la scelta di rientrare nella penisola? Vi sentite delusi o, se volete, traditi da norme cambiate in corsa? O al di là di tutto, ne è valsa la pena tornare a casa? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi, scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.